avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. So che è un tema che è caro alle nostre ascoltatrici. Più volte lo trattammo e più volte lo lambimmo, e questa mattina vorremmo assaggiarne l'evoluzione. Il tema è quello delle fantastiche donne dell'Est. Voi direte, le donne dell'Est sono quelle signore che vengono ad aiutarci nelle nostre operazioni domestiche, che sono così provvide a compensare i vuoti nella catena parentale, nell'accudire anziani, nell'accudire ragazzi, nell'accudire persone con bisogno di particolare assistenza. In questo sono dei veri e propri angeli consolatori. Sono dei lavori che nessuno vuole più fare, sono delle occupazioni che ormai nella struttura familiare disgregata, ma non, lo dico con iattura, perché in via di mutazione, quello che noi abbiamo inteso come famiglia sta cambiando e sta mutando, non esiste più quella sorta di predestinazione genetica per cui l'ultima figlia baffuta, il primo figlio zitello, erano concepiti e strutturati per occuparsi poi magari degli anziani, per occuparsi della famiglia, per occuparsi dei figli o delle figlie degli altri fratelli. Non esistendo più questo, c'è stata la grande, immensa, fantastica transumanza delle donne dell'Est. Fra tanti flussi migratori di cui stiamo anche parlando, di cui la cronaca ci dà dei segni terrificanti, questo è un flusso costante, un flusso di cui nessuno mai grida allarmismo o disperazione, se non le persone direttamente interessate da un lato improprio di questa affettuosa prestanza d'opera che viene appunto dalle donne dell'Est, che è quella che riguarda più da vicino e più strettamente alcuni aspetti, alcune manutenzioni, alcune cure corporali e personali che non sempre creano compattezza nell'ambito delle famiglie italiane. Io ho 57 anni, sono vedovo da 10 anni e ho cercato una donna italiana. Le donne italiane non sanno più darci quello che purtroppo queste extracomunitarie, chiamiamolo così, che vengono dai paesi dall'est, possono dare a noi uomini. Sono le donne di una volta, le donne italiane sono evolute, emancipate, cercano o solamente sesso, oppure sono già a posto così tranquille nelle loro precedenti magari relazioni, per cui si sentono già appagate e quindi hanno già dato. Il resto è tutto da prendere. Le donne invece dei paesi dell'est sono donne che sanno dare e sanno anche prendere. 800240024, questo era un nostro ascoltatore che esprimeva il suo giudizio, un giudizio antico, anche ancora prima della caduta del muro che sembrava impenetrabile del socialismo reale, prima della grande fuga dai paesi dell'est verso l'occidente con il crollo appunto del comunismo, le donne dell'est avevano comunque una sorta di misterioso fascino. Le grandi aziende, anche le organizzazioni che in qualche maniera volevano gratificare i loro dipendenti di sesso maschile organizzavano dei meeting, degli stage, delle gite aziendali o addirittura dei veri e propri pellegrinaggi politici per capire da vicino quale fosse la meraviglia del socialismo reale, che in realtà erano finalizzate alla conoscenza di queste donne, che si vociferava sin dagli anni 70 tanta, una libertà di costumi, una spregiudicatezza che noi non ci immaginavamo, a parte un fascino particolare, e soprattutto una capacità di gestire l'affair amoroso, sensuale, erotico e sessuale con la stessa leggerezza con cui potevano offrirti una brioche al bar. E quindi partivano generazioni, pullman, torpedoni e trenini di fantozzi in grisaglia con grandi borse pieni di profumi, collan, penne biro e quegli oggetti di fascinazione del comunismo con cui si pensava di avere un turpe mercimonio. Sono passati gli anni, continuano i grandi pellegrinaggi degli italiani, soprattutto verso i paesi dell'est, alla ricerca o di grandi avventure o anche di semplici possibilità di avere intrecci amorosi. Poi tornano felici, soddisfatti, raccontando grandi avventure, fantastiche donne, poi in realtà hanno semplicemente frequentato luoghi dove si esercita il mestiere più antico del mondo. А тепер о самих девушках. Le donne dell'Est stanno colmando ogni realtà, fisica e immaginaria, di una gran parte di maschi italiani. Sono russe, bielorusse, ucraine, ma anche polacche, rumene, lettoni e moldave. Possono chiamarsi Svetlana, Nadezhda, Ludmila, Irina, Olga, Tatiana. Dal volto quadrato, i fianchi generosi e i denti smaglianti. Buone per tutto quello che gratifica i nostri corpi di maschi mollicci e delicati, capaci di curare le nostre piaghe da decubito, pulirci il sedere senza schifarsi, lavarci, vestirci, e quando arriva l'ora, comporci con l'abito buono e le mani incrociate, pronti all'ultimo viaggio. Non solo, ma le stesse Anastasia, Alena, Ludmilla, occhi color ghiaccio da gatte delle nevi, seni di granito e labbra di corallo, sono capaci di farci tornare all'occhi innamorati anche dopo i 50. Con loro siamo tutti Casanove irresistibili, padroni di casa ancora sensuali e virili, a dispetto dei nostri matrimoni logorati. Sono le fate salvatrici che vengono dall'Est. Per il miracolo di renderci la regalità di maschi, ci chiedono poco in fondo, qualche briciola del nostro benessere. Quando scrissi questa scheda, che già vi ho fatto ascoltare, non voglio barare, suscitai grande ira soprattutto alle nostre ascoltatrici. Tu stai idolatrando, tu stai divinizzando una categoria di ciniche e cacciatrici e ladri di mariti. E probabilmente Carmen fa parte di questa categoria di indignate. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è accaduto? Niente, è accaduto che una signorina dell'Est, una rumena di Bucarest, devo dire tramite Facebook, comunque mio marito era andato in crisi perché aveva perduto il lavoro, quindi primo punto quello, voleva scappare, comunque volevamo scappare in due dall'Italia, dopo le ultime elezioni va un po' meglio. Questa donna dell'Est con un marito fedelissimo, giuro, super 18 anni, marito da 6 anni e convivente prima, gli ha detto vieni da me in Romania che tutto andrà meglio. Mio marito è andato in Romania, è partito il 12 luglio dell'anno scorso. Dopo, certo, 18... un italiano che emigra in Romania pensando di andare a, da un punto di vista del lavoro, di trovarsi meglio al posto del lavoro, già c'è un punto di partenza che non mi convince, mantenuto... sinceramente. Cioè, Lo so, io l'ho mantenuto e adesso lo mantiene la rumena. Però mio marito ultimamente ha ripreso i contatti. Se solo trovasse un lavoro in Italia, lui era insegnante. Sì, ma non ho capito bene, scusi, in tutto questo il marito fedelissimo che parte a... Il marito fedelissimo è scappato di casa per andare in Romania. No, il fedelissimo della rumena. La rumena l'ha invitato caldamente ad andare da lei tramite Facebook in Romania, offrindogli frizzivetto alloggio. Ma non ho capito il po'. Guardi, Carmen, non mi è molto chiaro. Allora, suo marito stava con lei, ha perso il lavoro, si è depresso, ha conosciuto una rumena tramite Facebook, sì, è scappato. Glielo dico chiaramente, a marzo era in crisi, è molto in crisi perché aveva perso il lavoro. Sì, vabbè, questo accade. Ha conosciuto questa rumena, sì. Lui voleva comunque scappare dall'Italia, me ne ero resa conto che stava male, sì. Ha colto l'occasione al balzo della rumena che gli ha detto vieni a Bucarest. È una storia d'amore, però. È una storia d'amore, qual è il problema? È una storia d'amore, però non è tanto una storia d'amore, perché mio marito mi ha detto chiaramente per telefono, recentemente ha ripreso i contatti, che se solo trovasse lavoro in Italia tornerebbe di corsa. E si è stufato anche della rumena, lo so, il solito marito piagnone che una volta che ha avuto questa vampata di passione, però vede, è leggermente atipica la sua storia, perché normalmente sono le donne dell'Est che vengono in Italia a lavorare, a cercare lavoro via dicendo, e fanno innamorare gli uomini italiani, sono loro che diventano stanziali. La fuga di suo marito è scappato da lei perché non ne poteva più, probabilmente, a parte non il lavoro. Non è scappato da me, è scappato dalla situazione. Eh no, è scappato da mia sorella, mi scusi, è scappato da lei. Non è che è andato a lavorare in fabbrica in Belgio o in miniera, no. È andato fra le cosce di un'altra donna, scusi il termine brutale, ma quando ci vuole, ci vuole. Carmen, se ne faccia una ragione. L'unica cosa che volevo dirle è che mai mio marito ci ha ripensato caldamente. Se lo riprende. Perché la Romania, mi ha detto lui, fa schifo e Bucarest fa schifo. Ho capito, però la rumena no, evidentemente. Si riprende al vuoto a perdere. Non in Italia, basta che avesse un lavoro. Vabbè, adesso si può riprendere il marito, lo troverà un pochino più dimagrito probabilmente, gli rifarà una cura ricostituente e avrà un bel umarel per casa da qui alla fine dei suoi giorni. Gianni Bandiera, buongiorno. Buongiorno. Gianni Bandiera è l'autore di Come sposare una donna russa e vivere per sempre felici e contenti a Liberty Castelvecchi, un manuale vissuto sulla propria esperienza personale. Innanzitutto, Gianni Bandiera, rispetto alla telefonata di questa signora, è una situazione atipica, vero? L'iter che tu hai seguito è un ben altro percorso. Vediamo se puoi intanto riassumerci l'itinerario, il percorso, la traccia che tu hai seguito. Ma la traccia, prima di tutto saluto lei e gli ascoltatori, la traccia è semplice. Io sono stato in Russia perché amo viaggiare e quando sono arrivato a Mosca ho visto un mondo completamente diverso. Siccome poi sono stato invitato anche in Ucraina a fare un giro da donne italiane, cioè donne ucraine che vivono in Italia, mi hanno detto passa anche da noi. Infatti ho fatto un biglietto aperto. Nel senso ma che ho la spinta era puramente scientifica, tu dovevi fare un'indagine per scrivere un libro o avevi delle personali necessità anche tu di guardarti attorno come il marito della signora, tanto per capire il movente? Certo. No, il movente è stato che a me piace viaggiare, ho una cugina, un cugino si è sposato una ragazza russa e sono stato ospite di questa dacia a Mosca. Quando sono arrivato a Mosca ho visto un mondo completamente diverso, ho visto un mondo differente da quello che narrava. Adesso io non voglio accusare nessuno, ognuno ha la sua storia personale, però di donne veramente con la D maiuscola, e qua mi attirerò gli odi di tutte le donne italiane, femminili, è la cosa più è quello che dicono tutti, tutte le persone che hanno avuto storie, che hanno mollato la famiglia, che sono stati presi, ripresi, lasciati, abbandonati o che vivono felicemente, sono fatti una famiglia, una donna e l'esticano, sono donne come non esistono più dalle nostre parti. Infatti il ruolo, diciamo, che gli è definito, lì la donna sa, senza fare adesso dei discorsi maschilisti, sa il ruolo della donna, ovviamente si aspetta che l'uomo sia uomo. Diciamo che lì il mercato, scusi questo termine, è invertito, cioè nel senso che la pressione che noi uomini italiani diamo alle nostre donne, che la pubblicità, che i mass media danno alla bellezza, lì non esiste. Parlando anche a Torino, al Salone del Libro, che la Russia era il paese ospite, con delle bellissime ragazze, mi dicevano che lì non sapevano di essere belle, pensavano di essere ragazze normali. Diciamo sì, c'è un livello di parvenza estetica superiore rispetto a quello che normalmente si vede alle nostre latitudini, perché, ma questo fa parte anche del clima, della posizione geografica, sono fortune particolari. Ridò un attimo i numeri, 800240024, chi avesse esperienza personale o avesse dati per controbattere quello che stiamo questa mattina dicendo, è pregato di chiamare perché l'argomento è interessante. Quindi Gianni Bandiera, al di là dell'aspetto, diciamo, che l'italiano che va in questi paesi si trova come Alice nel Paese del Meraviglio, o meglio ancora come Pinocchio nel Paese dei Balocchi, non è bello fino in fondo, però è esattamente questo il clima, è inutile essere ipocriti. Come avviene questa sorta di pellegrinaggio verso i paesi dell'est alla ricerca, in una gamma molto vasta di piacere sessuale, illusione di avventure per raccontarle agli amici o una donna per dividere la vita? Beh, poi ognuno ha le sue motivazioni. Quello che io cerco di spiegare nel libro è rivolto soprattutto a persone serie che in Italia non hanno, si sono, diciamo, stancati, non appartenendo a certi cliché di uomo ricco, di uomo egocentrico, che sono purtroppo dei cliché che da noi funzionano. Ecco, queste persone possono essere accompagnate, seguendo, diciamo, le direttive del mio libro, e portate direttamente in Russia. Quindi elimino anche un sacco di stereotipi, di luoghi comuni, il fatto che la donna di là appena vede un italiano sia a barbica dicendo io vengo con te perché voglio fuggire dalla mia realtà. Questa è una cosa che ho riscontrato veramente in minima parte. Ho trovato donne materialiste, ho trovato una donna che mi ha detto io non guardo nessuno al di sotto dei 15.000 euro al mese, quindi sembrava quasi un cartellino di un giocatore. Ma ho trovato anche delle donne che hanno un problema. Il loro problema è il loro contraltare maschile, sia per quantità e sia per qualità. E quindi quando un uomo italiano si pone in modo gentile, educato, che sa parlare, è vestito normalmente bene, perché noi italiani abbiamo una certa classe, non so come dire, ebbene la donna è affascinata da questa cosa. Ovviamente poi nel libro sono spiegate anche le difficoltà. Però mi sembra di capire tra le righe che è molto facile millantare per un numarel mediamente sfigato in Italia, si mette un vestitino comprato in un grande magazzino, di essere un grande dandy che chissà cosa abbia alle spalle. Molte volte c'è un aspetto fantastico che segue le persone che vanno alla ricerca, che poi quando queste signore arrivano in Italia si trovano in un appartamentino in periferia a dover dividere uno stipendino, capiscono che magari hanno fatto un passo sbagliato e saltano come gazzelle da un'altra parte. Ah beh, certo, ma infatti io questa cosa la scrivo chiaramente: non millantare di una villa se non ce l'hai, non millantare dei soldi se non ce li hai. Però quello che voglio dire è che ci sono anche delle donne che non sono attratte esclusivamente dal denaro, dalla fuga, ma sono semplicemente desiderose, come probabilmente alcuni uomini in Italia lo sono, di una storia sentimentale. Ovvio, forse io sono anche un po' romantico per definizione, ecco, quindi mi rivolgo a queste due categorie, eliminando tutta una serie. Tra l'altro, chi ha la voglia di leggersi il libro, ci sono due capitoli dedicati alle furbette, quelle che utilizzano dei metodi veramente geniali per estorcere del denaro. E conosco... Ma trovi che sia così vigliacca questa cosa? Perché io penso, guarda, se in cambio danno sentimento, illusione di giovinezza ritrovata, piacevolezza dei sensi, compagnia, allegria, questo secondo me è un prezzo, deve averlo, perché deve essere gratuito? Perché non prendersi un pelaticcio con la forfora alla pancia che non ha nulla da dire e farlo felice in cambio di niente, quando loro hanno bisogno di tutto? Sono d'accordo con lei, infatti non mi rivolgo in questo caso alla persona anziana che si, tra virgolette, innamora della badante, ma mi rivolgo a delle persone che ho conosciuto anche girovagando per presentare il libro, che hanno inviato dei soldi senza ricevere neanche quell'affettività di cui stava parlando lei. Quindi ci sono dei mezzi ancora più acuti, ancora più subdoli per estorcere del denaro senza avere in cambio neanche una storia, neanche niente, nulla assoluto. Allora lì può sembrare banale, ma ci sono degli uomini che ci sono cascati. Sì, ma c'è anche una maniera, questo patto che... Io l'ho descritto crudamente, può sembrare scellerato, in realtà va diluito in una prassi un pochino più lieve. Non è che uno manda il bonifico e in cambio riceve affetto e amore. Uno vive una storia, mette la sua parte, che è creare una situazione di benessere, un habitat piacevole, e d'altra parte ha una persona che ti crea la compagnia giusta. Sentiamo un attimo Rosanna, velocemente, che ha qualcosa da dire sulla telefonata precedente. Rosanna? Ah sì, salve, buongiorno. Senta, io ho alquanto poco dignitoso, la situazione di questa moglie nei confronti del marito, che è un uomo oggetto sballottato tra l'Italia e la Romania. Ma poi che deve... A lei hanno mai portato via un marito, signora? Prego? Hanno mai portato a lei via un marito? Cioè, io non riesco a capire. Se a lei hanno mai portato via il marito, una domanda che le faccio io. Preferisco non rispondere, però non riesco a capire, scusi. Perché domando, che uno deve starci in questa situazione. Ma lei non sembra poco dignitosa che si riprenda questo marito? No. Adesso è quasi trionfante, contenta del trofeo. Io trovo che nel campo delle relazioni e degli affetti non si può mai giudicare. Se quest'uomo lo ama, è disposto a passarci sopra. Io credo che, dottore, mi scusi, ci sia un'etica in certe cose. No, nei sentimenti l'etica non esiste. Queste persone dell'ESO, magari, che poi sono anche delle grandi lavoratrici, debbano essere giudicate magari con una faciloneria terribile, quando poi in Italia abbiamo altrettante persone che si comportano in maniera poco dignitosa. Che significa portare via il marito, eccetera? Cioè, sicuramente non l'avrei ripreso, glielo dico con tanta sincerità. È giusto che operi le sue scelte nel campo dei rapporti. Io non me la sento di giudicare poco dignitosa una donna che comunque riprende il marito. Uno può tenere tanto una persona che è disposto anche a cancellare e passare sopra un momento che lo ha fatto soffrire. Questo fa parte della gestione autonoma dei sentimenti, non si può imporre una regola, cioè dignitoso. Poi chi antepone la dignità al proprio piacere, alla propria soddisfazione, al proprio desiderio di felicità, secondo me vive male. Poi ognuno fa le sue scelte, libera lei di mantenere la sua dignità e di non rispondermi, quindi rispondendomi esplicitamente alla domanda, di aver passato un'esperienza simile a quella della signora. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Мелог 2.0. Когда мне не в мочь пересилить беду. Fermatevi in un bar. Quando avete adocchiato una possibile preda, cercate subito di scoprire se la ragazza in questione, seduta proprio di fronte a voi, sia libera o meno. Per capirlo, scrutate la mano destra, in modo particolare l'anulare. Nella tradizione ortodossa, le donne sposate hanno la fede all'anulare destro. Sorridete e temporeggiate. Lasciate a lei la possibilità di scelta. Poi, al momento giusto, un'occhiata furtiva e una frase buttata là. Chiedetele se potete sedervi al suo tavolo. Alla sua risposta negativa, non abbattetevi. Trovare moglie in Russia è una missione lunga e faticosa, a cui bisogna dedicare tempo ed energia. 800240024, questa mattina stiamo parlando delle donne dell'Est. Le donne dell'Est come miracolo, come punto di arrivo immaginifico di ogni attesa sentimentale, emotiva, erotica, coniugale degli uomini italiani. Le donne dell'Est come predatrici, razziatrici di maschi ormai tranquilli, ormai nell'epoca della pace dei sensi assolute, che improvvisamente si ritrovano grandi mandrilloni, grandi seduttori, si risentono degni di vivere una vita, e quindi queste donne vengono considerate come delle ladre, delle rapinatrici dalle donne italiane, che si vedono sfuggire questi residui umani che pensavano di poter avere a disposizione fino alla fine dei loro giorni. Il brano che avete ascoltato è tratto dal libro di Gianni Bandiera, Come sposare una donna russa e vivere per sempre felici e contenti, un manuale uscito per la Liberty Castelvecchi, che racconta in forma romanzata e narrativa una sorta di viaggio attraverso appunto il paradiso delle attese, delle promesse e molte volte anche delle illusioni. Abbiamo al telefono Karim. Karim, buongiorno. Buongiorno. Karim Gorgiou è un nostro ascoltatore che ha felicemente raggiunto l'apoteosi di questo viaggio delle speranze e si è sposato e vive da anni con una ragazza lituana. Addirittura ha un blog, karimblog.net, in cui racconta le fanta meraviglie di questa sua nuova avventura, nuova ormai a 5 anni. Guarda, io sono stato in Lituania, ho vissuto in Lituania per quasi 5 anni con la mia fidanzata, che è poi è diventata mia moglie, con cui ho avuto 2 bambini. E nel mio blog ho scritto molto sulle donne lituane, sulla Lituania e sulla cultura lituana in generale. Ovviamente è un punto di vista soggettivo, non oggettivo, quindi ho avuto critiche da tutte le parti, anche da personaggi che hanno a che fare con la Lituania in un modo abbastanza importante. Cioè, generalmente rode l'anima del fatto che tu abbia avuto una storia felicemente conclusa, non sia tornato con le pive nel sacco come tanti. Ma allora, bisognerebbe prima puntualizzare che io ho iniziato, ho conosciuto mia moglie che avevo 24 anni e lei ne aveva 19. E dopo 2 anni, quindi ne avevo 26, lei 21, ci siamo sposati e abbiamo avuto una bambina. Quindi una normale coppia di fidanzati, non eri No, io sono andato là. Un umarel distrutto che andava alla ricerca di qualcosa che gli ridesse felicità. Io sono andato là a trovare un mio carissimo amico in Erasmus, e sono uscito con lui, con gli studenti, in un pub e ho conosciuto una ragazza che poi ho frequentato, ho fatto di tutto per Vabbè, stare con lei. A te è andata bene, però guardati un attimo intorno, raccontami cosa vedi, perché tu vedrai anche l'esercito degli zombie che girano all'intorno camminando per strada con il torcicollo perché non sanno dove guardare. Questo è quello che si vede quando uno osserva gli italiani dalle tue parti. Io ho osservato non solo in Lituania ma anche in Lettonia, che ho frequentato per un paio di mesi, gli italiani tendono a arrivare, non di tutte le età, soprattutto quelli giovani, in branco, 3 o 4, e cercano di ogni ragazza bella, perché là è indiscutibile, le ragazze hanno dei lineamenti dolci, gentili, tutto quello che si vuole, però in branco cercano di molestarle, perché alla fine è quello. Come una volta quando c'erano i militari in libera uscita, oggi non si vede più. Bravo, ma bravo. Le città sedi di CAR, cioè di corso arruolamento reclute, non esistevano donne in giro, perché mi ricordo, lo feci a Savona, quando uscivano i militari in libera uscita era come le cavallette in un campo di grano. Si è arrivati a dei punti che sono un po' particolari, nel senso che Riga, che è la capitale della Lettonia, ci sono stato qualche anno fa, ma è invivibile, perché ormai la città, il centro della città, che è quello frequentato dai turisti, si è trasformato in un accogliente paradiso per questi turisti in ricerca di sabato. Sì, poi le agenzie di viaggio giocano anche sulla lubrica assonanza, vi mandiamo a Riga, vedrete, sarete contenti, via dicendo. Bravo. Lo so, ma è vecchia la storia. Però il discorso è che poi in realtà io, essendo lì, stato lì perché sono tornato. Ma è vero che c'è una sorta di geografia in cui le ragazze che non vogliono avere scocciature evitano certe strade, sì, perché ci sono gli italiani? Assolutamente, i paesi, le capitali che sono poi i posti più frequentati, vengono frequentati nel centro più europeo, nessuno va nella periferia dove si possono ancora vedere i blocchi sovietici e dove non c'è niente da guardare, rimangono nel centro e le ragazze sanno che in quei periodi ci sono gli italiani e non solo gli italiani, evitano di passare in centro, fanno strade traverse, perché in fin dei conti bisognerebbe dire che queste ragazze, almeno in Lituania, sanno tutti perfettamente l'inglese, vedono la TV in inglese e sono informati, internet c'è per tutti a velocità altissima, non sono sceme, sanno tre lingue almeno, quindi sanno gli italiani. In Lituania c'era una canzone che andava di moda qualche anno fa, che il ritornello diceva che gli italiani fanno gli spaghetti a tutte, inteso che la raccontano a tutti, quindi arriva anche lo stereotipo prima di noi. Cioè noi siamo diventati delle maschere, delle macchiette, dei personaggi da burla, e quando andiamo all'estero ci comportiamo in questa maniera. Fermiamoci un attimo. Carmi 800240024, l'argomento mi pare chiaro. Introduco un ospite da Londra, Loretta Napoleoni, buongiorno. Buongiorno. Loretta Napoleoni è un'economista e autrice, cito l'ultimo dei suoi libri, penso, Maonomics, l'amara medicina cinese contro gli scandali della nostra economia, edizione Rizzoli, 2010. Ma Loretta Napoleoni, in particolare, vorrei sentirla su un suo libro fantastico di qualche anno fa, Economia canaglia, il lato oscuro del nuovo ordine mondiale, edizione Il Saggiatore, dove proprio nel primo capitolo parla del fenomeno delle donne russe che sono le prime vittime della caduta del blocco sovietico. È possibile, Loretta Napoleoni, farci una breve sintesi di quella che è la sua idea, il suo punto di vista rispetto alla donna russa che si trova improvvisamente ad essere protagonista di una grande catastrofe, un grande momento di liberazione per tutto il mondo, ma è la prima a avercelo sulle spalle e deve comunque darsi da fare? Sì, dunque c'è una frase storica, secondo me, che il muro di Berlino in realtà è caduto sulla testa delle donne, in particolare parliamo delle donne dell'est e delle donne russe. In Unione Sovietica e nell'est europeo esisteva la piena occupazione, nel momento in cui questo muro è crollato e è iniziato, diciamo, il processo di apertura ai mercati e quindi al libero mercato, la disoccupazione femminile ha toccato delle punte incredibili fino all'80-85%. Questo perché i settori dove le donne erano impiegate, per esempio il tessile, sono stati quelli più colpiti. In più, io per fare un esempio, Loretta Napoleoni, la signora che con grande nostra felicità si è occupata dei miei figli per tanti anni era un ingegnere meccanico. Assolutamente, sì, cioè, infatti ingegneria meccanica, ma anche molti medici, tra l'altro, perché improvvisamente quel sistema di assistenza sociale che esisteva sotto il regime sovietico è venuto a mancare e quindi le donne si sono trovate senza lavoro. Che hanno un po' l'asse portante dell'economia sovietica, le donne, in parte. Le donne in alcuni settori, appunto. In po' di questi settori qua, dico. Sì, erano l'asse portante, sotto l'occupazione femminile era a livelli altissimi, parliamo del 90%. Allora, perché le donne sono trovate in una situazione peggiore degli uomini? Ma gli uomini che facevano se il 90% in quei settori era occupato da donne? Sono domande che mi pongo in questo momento, non me le hanno mai poste. Ma gli uomini lavoravano in altri settori, non so, per esempio lavoravano nell'industria pesante. Cioè, c'era una certa divisione del lavoro anche in funzione alle prestazioni fisiche diverse tra uomini e donne. E cioè, tutte queste donne sono trovate improvvisamente senza lavoro, e cosa hanno fatto? Allora, queste donne sono trovate senza lavoro, ma la cosa interessante è questa, che anche gli uomini sono trovati senza lavoro, cioè nel senso il sistema sovietico, l'economia è crollata sia per gli uomini che per le donne, però gli uomini sono emigrati, la maggior parte di questi uomini sono emigrati, le donne sono dovute rimanere nei propri paesi, nelle proprie città, perché avevano la cura dei bambini e la cura degli anziani. Quindi queste donne in un certo senso si sono trovate intrappolate in questo nuovo sistema. E allora cosa è successo? È successo che la mafia, che si stava organizzando, la mafia russa, ha iniziato a commerciarle come appunto prostitute principalmente. Quindi nel momento in cui si trovavano alla disperazione, venivano convinte da questa organizzazione mafiosa nata proprio subito dopo la caduta del muro, che trasferendosi all'estero avrebbero trovato un lavoro, avrebbero anche trovato un marito e quindi avrebbero potuto sostenere la famiglia che lasciavano dietro le loro spalle. Molte di queste purtroppo sono finite nella prostituzione, molte sono addirittura finite nel commercio delle schiave del sesso, e così inizia la storia. Verso quali paesi? Verso quali paesi? Principalmente l'Occidente, quindi vediamo che negli anni 90 c'è letteralmente un boom dell'industria del sesso in Germania, Berlino diventa uno dei centri di smistamento e da lì poi si diffonde, diciamo, in tutta Europa. Loretta Napoli, ci fermiamo soltanto un istante, devo dare la linea all'informazione del traffico, è molto interessante quello che stai dicendo, non volevo creare uno stacco troppo forte. Un minuto soltanto, diamo l'informazione del traffico e riprendiamo con lei. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. А сейчас мы поговорим о пяти золотых правил. Dopo il periodo di corrispondenza a distanza, arriva il momento in cui voi e la vostra corrispondente dell'est decidete di incontrarvi. E questo sarà il momento più intenso nella costruzione della vostra nuova relazione. Ecco 5 regole d'oro. Правило номер 1. Место встречи. 1. Dove incontrarsi. Non dimenticatevi che è molto difficile per una donna russa spostarsi in Europa occidentale. Per il primo incontro, spostatevi voi in Europa dell'Est, nel suo paese. La ragazza sarà più a suo agio e più sicura, vicino ai suoi amici e alla sua famiglia, e voi le mostrerete tutto il rispetto che le portate. 800240024, stiamo cercando di scandagliare l'universo delle donne dell'est, universo che è fatto di un'infinità di fattispecie, delle più complicate, delle più controverse, da il desiderio e il bisogno di risolvere una situazione economica difficile al desiderio e il bisogno di trovare un conforto, una gratificazione di tipo sensuale o di tipo sentimentale. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti. Molto velocemente. Sì, niente, io è dal 92 che vado in Russia. La prima volta sono stato a Petroburgo, dove devo dire è una bellissima città, e dunque c'è anche una via proprio dedicata agli via italiasti che è vicino alla Nevsky Prospect. Ma lei che andava a fare queste volte qua, tutte queste volte? La prima volta sono andato lì a Petroburgo, sono andato così per turismo, ho dovuto fare un giro, sono stato curioso vedere la Russia, stava cadendo il comunismo e sono andato. Ah, poi prima della caduta, sì. Sì. Sono stato a Mosca, poi sono stato anche a Murmansk in Siberia, dove devo dire che là ci sono le donne più belle. Quindi andava praticamente a caccia di donne? Diciamo, se non mi piace niente di male, basta ammettere la realtà. Dopo devo dire per i radioascoltatori, c'è un sito qua in Italia che è gratis. Più di uno ce ne stanno, sì. Sì, si chiama sposiamocioggi.it e ci sono tutte le badanti, tutte le russe che... Beh, lei alla fine come si è sistemato? Continua a... Io sono già 5 anni, dopo esserci andato diverse volte, ho trovato, diciamo, mi sono innamorato di una ragazza. Si è placato i sensi e si è sposato. Sì, sì, mi sono sposato. Va bene, bocca al lupo Francesco, in bocca al lupo. Riprendiamo con Loretta Napoleone, ricordo economista, autrice di vari libri, ma in particolare la stiamo scandagliando su Economia Canaglia, il lato oscuro del nuovo ordine mondiale, edizione Il Saggiatore, in cui fa un'analisi molto interessante anche da un punto di vista economico e molto dettagliata su quello che è stato il fenomeno della transumanza delle donne russe. Loretta Napoleone, alla luce di quello che ha detto il nostro ascoltatore dell'annuncio, questa rete così organizzata di scambio di favori, di affettività, di situazioni matrimoniali in cambio di turismo, in mano a chi è? Chi lo sta organizzando? Adesso, passata la fase della mafia che esportava donne russe e ne faceva carne da macello, oggi come si è specializzato il mercato? Io direi che oggi il mercato è molto più libero di un tempo, nel senso, all'inizio degli anni 90 e anche parte degli anni 2000 la mafia aveva un potere su queste donne, proprio perché l'impatto della caduta del muro e quindi il cambiamento del sistema economico era dirompente. Oggi come oggi è diversa la situazione, molte di queste donne sono perfettamente consapevoli di quello che fanno, sono, diciamo, controllano la propria vita e decidono di appunto sposarsi o avere delle relazioni con uomini italiani o anche europei, proprio perché questo gli assicura una sicurezza economica che altrimenti non potrebbero raggiungere in casa. Anche ormai è passata la generazione, le donne di cui parlavamo noi, le prime vittime della caduta del muro, vittime nel senso gli ingegneri, i medici sono trovati senza lavoro, hanno già un'età abbastanza avanzata per fare le mogli, saranno le loro figlie che già entreranno in questo circuito. Ma guardi, io dico una cosa che ho scoperto quando ho fatto questa ricerca, io la ricerca per l'economia canaglia l'ho fatta nel 2006 e intervistando in Ucraina o anche in Lituania, insomma un po' dappertutto, diciamo, nella ex Unione Sovietica, ho scoperto che le ragazzine, quindi parliamo delle 15enni, 16enni, non sognavano più di fare il medico, l'astronauta come era un tempo in Russia, ma invece sognavano di fare l'equivalente delle nostre veline. Anzi, devo dire la verità che l'idea di venire in Italia a fare la velina era una delle aspirazioni, cioè le modelle, entrare nello Star System, perché hanno visto, vedevano che in realtà c'era probabilmente dalla nostra televisione un mondo che gratificava la bellezza, l'apparenza. Sì, ma è anche capisce, questi sono i modelli sociali che vengono presentati, per cui dato che le slave sono delle donne molto belle e quindi in un certo senso hanno preso coscienza di questo loro potere, cioè la bellezza, e quindi utilizzavano questa loro bellezza quale trampolino di lancio per migliorare la propria condizione sociale, economica e quindi avere una vita migliore. In passato nell'Unione Sovietica non era così, cioè diciamo il sistema scolastico per esempio era tale per cui uno sognava di raggiungere le vette accademiche e poi avere una professione. Quindi se vogliamo dare una conclusione, c'è un'evoluzione da un punto di vista dell'offerta di questa merce fantastica che è bellezza, avvenenza, piacevolezza, ma rimane sempre immutata comunque la domanda dell'uomo italiano che pensa che nei confronti di questo mondo fantastico può riscoprire una sua antica facoltà di essere considerato il principe della passione che probabilmente col tempo è un po' appannata. Grazie infinite a Loretta Napoli. Napoleone e i nostri ospiti, ci sentiamo domani. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.